I do, I think it is, finally. We started 10 years ago. Penso di sì, finalmente. Abbiamo iniziato 10 anni fa e già a quell'epoca avevo preso la cosa molto seriamente. Pensavo che la possibilità di trasmettere in tutto il mondo fosse qualcosa di veramente eccezionale, dato che avevo sempre trasmesso solo per gruppi più ristretti in California. Ma le persone facevano fatica a recepire questa novità, non l'hanno presa seriamente. Oggi, 10 anni dopo, vediamo che la web radio sta diventando sempre più accessibile. Gli utenti la possono ascoltare dai loro telefoni cellulari, presto lo potranno fare dalle loro auto, tramite autoradio in grado di connettersi alla rete, e per un paese esteso come il nostro, dove le persone passano molto tempo alla guida, questo è molto importante. Ora, anche gli investitori pubblicitari sembrano prestare più attenzione a questo business. Noi lavoriamo con un'agenzia di New York che compra degli spazi pubblicitari sulla nostra radio per clienti nazionali e anche internazionali, che si rendono conto di poter raggiungere gli ascoltatori nei loro uffici, sui cellulari, nelle loro case sparse per il mondo. Oggi è molto più facile ascoltare la radio grazie ad internet. L'accessibilità per tutti è finalmente realtà e sono sicura che migliorerà ancora nel prossimo decennio.